Ben ritrovati in frequenza da Francesco Galante, lo sguardo alla viabilità del Veneto. Partiamo da alcuni lavori in autostrada 4, abbiamo lavori tra Vicenza Ovest e Montecchio in entrambe le direzioni e allo svincolo di entrata di Sirmione. Verso Venezia registriamo un cantiere tra Montebello e Montecchio per la corsia di emergenza e sempre per la corsia di emergenza, ma in direzione Milano abbiamo lavori tra Peschiera e Sirmione. Ancora in autostrada 4, lavori in corso tra Venezia Est e Meolo Roncade in direzione Trieste con una corsia di marcia chiusa e verso Venezia abbiamo una corsia di marcia chiusa tra Re di Puglia e Villesse. Sulla 23 Palmanova Tarvisio in direzione Tarvisio c'è una corsia di marcia chiusa per lavori tra il bivio della 4 e Udine Sud. Il traffico risulta regolare lungo la Valdastico e lungo l'autostrada del Brennero. Lavori in tangenziale sud a Vicenza tra la connessione del casello di Vicenza Ovest e la connessione del casello di Vicenza Est. I lavori interessano la corsia di sorpasso in direzione Padova. Per finire abbiamo alcuni cantieri all'altezza tra Martellago e Zero Branco sul passante di Mestre. Sulla 13 Bologna-Padova registriamo della nebbia a banchi tra Ferrara Nord e Villa Marzana con visibilità intorno ai 90 metri. È tutto per il traffico che torna alle 14.30. Vi auguro buon viaggio, tra poco ritorna ora musica.